Sì, il nome. Io non lo so il latino, quindi non vi dico che cosa c'è scritto nel mio stato di, no, nel mio certificato di battesimo in curia. Comunque c'è scritto che sostanzialmente mio padre mi voleva chiamare Pietro Nenni come Pietro Nenni, il capo del Partito Socialista Marxista e Ateo, e questo nome non è stato accettato. Quindi è stato trovato un compromesso e il mio nome di battesimo è diventato, invece che Pietro Nenni, Pietro Neno. Devo dire che è un nome che mi pesava molto, perché a scuola si chiamavano tutti quanti Michele, Giovanni, Filippo, e io mi chiamavo Pietro Neno, quindi ero diverso, e conta la diversità, soprattutto nei bambini. Poi invece pensate che faccio un mestiere dove una delle cose più importanti che deve essere fatta è la riconoscibilità, nel bene o nel male, non ha importanza. È un nome diverso, tutti si dimenticano Giovanni e Michele e si ricordano, se non altro per curiosità, Pietro Neno. E quindi devo dire grazie a mio padre. E dovete che sapere che, insomma, probabilmente questo nome viene fuori in questa maniera perché io sono l'ultimo di 8 maschi. Mio padre, che aveva fatto secondo la seconda elementare, probabilmente aveva finito la sua capacità di nell'onomastica e quindi ha dovuto inventare qualcosa, ma comunque ognuno sa il nome che si tiene, che si trova e se lo tiene, e io sono anche contento di questo nome. Il contesto storico, allora io il libro racconta di una migrazione che è in una prima fase verso la Romagna e in una seconda fase verso la Toscana. Verso la Romagna il fenomeno è più inizia prima e finisce più tardi, quindi è più lento, ma molto massiccio. Oggi in provincia di Rimini esistono in vita, io sono uno di questi, 2.000 persone nate nell'Ascolano, e sono 2.000 persone che hanno fatto i contadini, tranne me perché avevo 2 anni, però più o meno vengono tutti da quel mondo. Pensateci, non è poco. In Toscana il fenomeno è un fenomeno che inizia ai primi anni 50. È molto breve, ma molto organizzato a differenza di quello di Rimini. È molto organizzato perché? Perché c'erano dei canali per cui dei periti agrari, ad Ascoli funziona molto bene un istituto agrario, avevano delle relazioni con le fattorie toscane. In quel periodo, anche da quelle parti, Poggi Bonsi, Siena, Certaldo, i contadini che non avevano più la capacità, per il motivo che dicevamo prima, di avere un reddito importante, oppure non, insomma, soprattutto nelle zone più difficili, più in alto, in cima alle colline. Poi magari proviamo a pensare che cosa possono valere oggi in termini di milioni di euro quei terreni. E quei contadini, invece di continuare a fare il contadino, hanno preso e sono andati a fare i frigoriferi, sono andati a fare gli operai. E quelle terre sono rimaste incolte, il proprietario terriero, di solito un nobile, prendeva le fattorie, le vendeva, e i periti agrari avevano il compito, quelli ascolani che avevano queste relazioni. Io ho 50 faldoni di uno di questi periti che si chiamava Spicocchi, e organizzava i contadini e li portava in Toscana. Li portava in Toscana e prendeva. Scusami, io ho visto che venivano chieste famiglie che non avessero Sì, idee politiche particolari, no, mentre beh, invece chi se ne andava forse le aveva. sì, vabbè, ma questo era quello che chiedeva il padrone di quelle parti là quando andavano a fare i mezzadri. Però poi c'erano anche dei contadini che andavano a comperare. Poi magari vi dico perché. No, c'è una in questa corrispondenza. Non so se lo trovo qui. Ho tenuto a mettere in risalto una lettera che è stata mandata da un proprietario terriero del Toscano, che chiedeva a una famiglia di due o tre uomini, qualche ragazzo, un paio di donne, eccetera, purché di avessero sane concezioni politiche. Adesso ognuno, quella concezione politica dei comunisti e dei socialisti era sana, quindi non ha Ma mica non fatto. credo intendesse Ah, questo. beh, vabbè. Vabbè, quindi questi periti agrari prendevano probabilmente queste grandi fattorie, poi le portavano i contadini, facevano i frazionamenti e ognuno dei contadini o se poteva comperava oppure rimaneva a mezzadrie. Qualcuno, secondo me, facendo anche qualche affare, non è il caso di Spicocchi, però insomma di queste cose. Quindi il periodo è la fine degli anni 40, la fine della seconda guerra mondiale. In quel periodo che cosa succede? Succede che crolla il fascismo, nascono i partiti, anzi rinascono i partiti, rinascono i sindacati. Uno dei problemi più importanti e una delle mancate riforme di questo paese, secondo me, è quello della terra e quindi anche la mancanza di una riforma agraria che in effetti non c'è mai stata. Nell'Ascolano, tra l'altro, come in altre parti d'Italia, si formano le leghe contadine, che sono prima unitarie, poi, vabbè, con la componente cattolica, socialista, comunista, poi successivamente, soprattutto in seguito alla rottura di De Gasperi con il Partito Comunista e Socialista, si ha la divisione del sindacato. E in questo contesto succede che soprattutto i giovani, quelli che sono tornati a casa dalla guerra, che hanno fatto la resistenza, insomma, cominciano a pensare che il mondo non finisce ad Ascoli, sono venuti a contatto con altri mondi, con altre culture, con altre realtà, hanno parlato con delle persone, hanno cominciato a mettere in discussione questo tipo di cose. Teniamo conto che comunque Ascoli alla fine degli anni 40 era la provincia in Italia con il più alto tasso di mezzadria. Questo significa che i padroni erano forti, agguerriti e che non erano disposti a cedere di fronte a nulla rispetto ai privilegi che avevano, nemmeno pensate. In quel periodo, credo attorno al 47, c'è stato non una legge, è diventata successivamente una legge, si chiamava Lodo De Gasperi, che sostanzialmente cercava di mettere un po' ordine tra il rapporto tra il proprietario terriero e il contadino, soprattutto cercando di portare la divisione che era al 50% al 53% e 47%. Ecco, nemmeno questo, che poi è stato convertito in legge, riusciva a far smuovere la proprietà. In questo contesto succede poi che c'è stato un forte sviluppo, come posso dire, insomma, nascono tanti figli, adesso non mi viene nemmeno, non mi viene demografico si dice, comunque nascevano dei figli. E questo ha significato che cosa? Che siccome il rapporto di mezzadria si è sempre basato su il rapporto tra un uomo e un ettaro, io quando andavo a fare le interviste, ormai ero diventato uno specialista, quanti eravate in famiglia? 8. Avevi un campo di 8-9 ettari. Era 8 ettari e mezzo, era 9 ettari. Perché era un uomo e un ettaro. Questo era matematico. Le donne valevano la metà, sia chiaro. Nel conteggio le donne valevano la metà. I bambini il 25%. Laddove era già difficile vivere con la famiglia in quelle condizioni, nascevano degli altri figli, soprattutto alle coppie giovani, quindi evidentemente tutta quanta la situazione della famiglia si impoveriva. Quindi i più giovani hanno cominciato, uno, a mettere in discussione il rapporto col padrone e in alternativa hanno dovuto prendere e andarsene via. Quindi il contesto storico è quello. Il contesto è un contesto in cui quindi vengono fuori dei grandi scontri sociali, delle grandi lotte contadine. Io ho ricostruito, perché ho avuto la fortuna di trovare un documento del 1948, credo, ho ricostruito una giornata di lotta dei contadini a Montalto, perché i padroni, in risposta alle richieste dei contadini, hanno mandato le disdette di massa. 200 disdette, 300 disdette. I contadini hanno fatto una manifestazione davanti alla pretura dove si discutevano queste disdette, hanno sequestrato, la parola giusta, 5-6 proprietari terrieri di quelli che avevano mandato le disdette, e fino a quando queste non erano state rimesse loro non li hanno liberati, tant'è che un sindacalista di cui so nome e cognome, a un certo punto, siccome uno di questi non voleva assolutamente saperne nulla, ha detto, affacciandosi alla finestra, al balcone, non in come quell'altro, un balcone più piccolo, non meno importante, il marchese del Duca Giugni non vuole sapere di cose, o da qui a mezz'ora mettere la testa a posto, oppure lo diamo in pasto alla folla. Insomma, che era una cosa abbastanza pesante. Questi signori, questi contadini, sono stati denunciati. Io ho trovato la sentenza, che non è stata mai pubblicata, e quindi è tutto quanto la ricostruzione, è una cosa molto, molto bella. Perché poi le disdette venivano prese, venivano messi dei fili tra i due palazzi della piazza, queste disdette da sotto venivano, non con gli accendini come faccio io, con le torce venivano bruciate, e c'era un periodo di grande movimento, di grande lotta. devo dire che in questi movimenti non due cose mi interessa raccontare. Il ruolo, il modo di comportarsi, per esempio, della forza pubblica, i carabinieri e la polizia, che era tutta quanta ancora fascista, è chiaro, non è che cambia, cade il fascismo e crolla tutto, sono sempre quelli, che certamente non stavano dalla parte dei contadini. Io, così, parlando con alcuni amici che stanno a Bari, mi raccontavano che, per esempio, nelle lotte mezzadrille di Andria, molto importanti, molto forti, con dei morti anche, e i contadini quando andavano in piazza, lo dico perché è troppo bella come immagine, quando andavano in piazza avevano le tasche dei pantaloni e della giacca cucite, perché la polizia poteva mettere loro in tasca un coltello e in questo caso li avrebbe arrestati. Cioè, pensateci, questa è una cosa, insomma, è un'immagine forte. L'altro ruolo di cui non vi posso parlare in questo momento, ma magari ve ne parlerò un po' più tardi, è il ruolo della Chiesa, che non ha avuto un ruolo indifferente. I motivi della lotta comunque erano una giusta causa nelle disdette, perché non è che la disdetta arrivava perché uno non sapeva lavorare il campo, oppure invece di fare 500 quintali di grano ne faceva 27. No, la mattina il contadino non salutava il padrone perché ci aveva gli affari suoi, niente, quello, via. Lo cacciava, non c'era una giusta causa, e questa mi sembra una cosa giusta. Miglioria nelle abitazioni, non so se voi avete mai abitato fuori in campagna da qualche parte, insomma, capitava che in campagna nelle porte ci passavano le pentegane, come si dice, insomma, ci passavano i topi, perché era che passavano insomma, la porta era un eufemismo che dire che chiudeva, c'era. Ma poi nevicava dai tetti, perché non so, vabbè. Comunque non era una situazione straordinariamente felice. Una diversa e più vantaggiosa ripartizione del raccolto per il mezzadro, questo l'ho detto, si chiedeva il 60%, ma poi si è arrivata una mediazione sul 53%. L'eliminazione dell'ipresiente, le regalie, e un'altra cosa che non vi ho detto erano le corvée. Cioè, non è che tu la mattina alle 5 prendevi, andavi a raccogliere l'uva e poi dopo la sera alle 9, le 10, allora adesso prendo, vado a casa. No, alle 10 di sera dovevi prendere il carro, caricare la parte del padrone, andare a portarla in paese dove stava il padrone, metterla in cantina e poi verso l'una alle due forse te ne potevi tornare a casa, che alle 5 dovevi dormire perché alle 5 poi dovevi svegliarti per andare a fare l'altra giornata di lavoro. Quindi le corvée, che erano anche corvée legate al fatto che dovevi mettere a posto le strade, in questo caso per le amministrazioni pubbliche, gratuitamente, perché c'era un certo numero di giornate gratuite, e per il padrone per fare i lavori di cantina, la raccolta della legna, fare tutti quanti i canali di scolo, insomma c'era tutta quanta una serie di altre cose che non sto a raccontarvi, per cui questa era una vessazione, insomma. E quindi questo era il clima che non poteva che essere bollente. Certo, e con una qualità della vita bassissima, però tu in questa qualità della vita bassissima individui invece degli elementi che non solo racconti come positivi, cioè, ma racconti come perduti, no? Cioè, in particolare c'è tutto il discorso della solidarietà, che e anche di un vivere contadino che ovviamente oggi non sarebbe applicabile all'attualità, ma che forse aveva qualcosa di cui si è perso tutto, no? Ma la cosa più importante che posso dirti da questo punto di vista è questo. Allora, io ho cercato di capire, ne abbiamo anche parlato, no? Ho cercato, no, di capire, cioè, non è che ho più questa grande capacità, ho cercato di vedere che cosa potesse di questo mondo ancora oggi essere valido e che cosa questo mondo ci potesse aver lasciato. Parliamo di qualche cosa che è successo ieri mattina, 1960, 1950. Oggi siamo nel 2007, parliamo di 50 anni fa. È ieri, per la storia non è niente, è un'inezia. Una grande carenza che c'è in questo libro, ma non è detto che non ne faccia la terza edizione, perché questa è la seconda, è il mangiare, che non è il mangiare come diceva lui della nonna, perché i contadini non avevano da mangiare, i contadini a tal modo reducto che la terra morse, scriveva qualcuno. Cioè, i contadini mangiavano la terra, adesso, a tal modo reducto che la terra morse, una bella immagine. Dovevano mangiare solamente le cose che potevano prendere dalla natura. Quindi mi manca il modo di mangiare di tutti i giorni, e c'è una specializzazione che oggi non esiste più, è la conoscenza delle piante. Quindi io cercherò di ricostruire, parlando con qualche persona anziana, la cucina come si faceva una volta, che veniva fatta col gran turco molto spesso, il pane fatto in casa che mia madre ancora faceva, insomma altre cose. Ma e l'altra cosa che mi manca sono anche questo legato alla conoscenza, alla grande cultura delle erbe, i rimedi, le erbe come medicina. È una cosa che non... Sì, ce l'abbiamo a livello industriale, ma io lo so che quella dei contadini è una cosa diversa. Cercherò di mettermi avanti. Ma tu mi dicevi della solidarietà. Io vi voglio dare soltanto due immagini. La solidarietà è una di queste. L'altra cosa che secondo me come grande valenza può essere salvata è un'altra che mi tocca personalmente, che vi racconto. Che qual è? Io stavo scrivendo il mio libro, parlo del 2006 in agosto, sì, e una mattina, la domenica che di solito si dorme, mi suonano a casa, e mi sono anche un po' scocciato perché dico la domenica si dorme. Era un contadino che veniva da Roma, che aveva saputo che, Ascolano naturalmente, che io stavo ricercando documenti e facendo delle cose e volevo scrivere questa cosa, questo libro, e mi porta un foglio di carta del 1952 che è pubblicato nel mio libro. E questo foglio di carta, che cosa c'è? C'è un elenco di nomi, Capitani, Acciarri, Magnavi, insomma c'è tutta quanta una serie di nomi. Di fianco c'è una serie di numeri in corrispondenza. Tra l'altro sono contento perché in questo elenco c'è mio padre, mio nonno e un altro mio nonno, e l'altro mio nonno. Sostanzialmente questo contadino ha tenuto in tasca dal 1952 al 2006 un foglio di carta dove c'erano scritti i nomi, la quantità dei soldi che gli sono stati dati, perché a lui nel 52 sono morte 8 vacche, che era l'unica forma di forza motrice che c'era per lavorare la terra, e se non aveva le vacche non poteva lavorare la terra, quindi era rovinato. Ecco, allora la mia domanda è: che valore ha la solidarietà per quell'uomo? È un valore? È una cosa importante? Io ritengo di sì. Questo uomo ha tenuto un foglio di carta dal 52 al 2006 con l'elenco dei nomi che gli hanno dato i soldi per comperarsi qualche cosa che gli ha permesso di tornare a vivere, perché tornare a comperarsi la forza motrice per poter continuare a lavorare. Io credo che questo sia un valore. Non so se oggi questo, no? Forse quando qualcuno sta male, più si affossa lui e più vivo meglio io, non lo so, nelle aziende di solito è così. L'altra cosa che mi piace raccontare, che non ho scritto perché non volevo farlo, ma io sono l'ultimo di 8 fratelli maschi. Mio padre era socialista, Pietro Nenni non era particolarmente amante dei preti, era leggermente anticlericale. A un certo punto mio padre riceve una lettera da mio fratello, il primo, che era in seminario, e fino a quando era in seminario tutto sommato poteva anche andare bene, nel senso che studiava e c'era ancora la possibilità che tornasse indietro. No, invece in quella lettera c'è scritto che vuole farsi frate. Il primo figlio maschio di una famiglia contadina è una cosa importantissima, perché è quello che deve perpetuare la razza, deve continuare il rapporto di lavoro. Insomma, in quei campi c'erano famiglie che andavano avanti da 5-6 generazioni, quindi il primo figlio maschio è una cosa importante. E mio padre, che aveva la seconda elementare, io ho casa mia ristrutturato, fatto rimettere in ordine, restaurato il suo scrittoio, che era un comodino dove scriveva, che aveva la seconda elementare, scrive una lettera dove prima gli dice che l'inferno e il paradiso è su questa terra e mette in chiaro le cose. E poi a un certo punto gli dice: la vita è breve, dovete scegliere, gli dà del voi, dovete scegliere e scegliete bene, perché ognuno di noi è libero e indipendente delle sue cose personali. Mio padre non aveva la capacità, essendo contadino, di appropriarsi del concetto di laicità. Ma pensate, quindi questo, quello che scrive, e non è perché era mio padre, quello che scrive è quello che era la cultura dei contadini, era la cultura che viveva tutti i giorni, la cultura materiale, come mi piace chiamarla. Oggi siamo nel 2007 e ancora stiamo parlando di queste stupidaggini, nel senso che c'è ancora la necessità di rimarcare il fatto che bisogna rispettare qualcuno che ha delle idee diverse dalle tue. Quindi questo, secondo me, è l'altra grande, l'altro grande valore che io posso pensare che quella civiltà che non c'è più può essere utile per il nostro modo di vivere. Non so come posso dirti. Ho risposto alla tua domanda? Come no? Volevo chiedere la stessa cosa nel Cavolo Collina, nel senso che cosa rimane di questa contadinità positiva?